vai. Guarda lo spettro tra 5 secondi. Guarda lo spettro tra 5 secondi. Oh. Ehi, guarda lo spettro, vai a guardare lo spettro tra 5 secondi. Ma non lo capisci l'arabo, non lo capisci?